Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Iniziò il corso e mi trovai catapultato nelle cucine dell'istituto di formazione, in giacca bianca e pantaloni Piedpool. Lavorai con una soddisfazione mai provata in un'osteria di Pietrasanta, specializzata nei piatti di pesce. Mi chiamo Marco, vivo a Milano, mi occupo di tecnologie alimentari, convivo con la mia ragazza e ho una grandissima passione per la cucina. Stiamo chiudendo e quindi dal vivo Di Martino ci fanno l'ultimo pezzo di oggi e poi ci salutiamo. Io cambio idea. Non state ascoltando una replica, non è un podcast, siamo sempre in diretta, sono le 16:09 minuti di un bel lunedì soleggiato di inizio dicembre, 1° dicembre 2013, Radio 24, voi siete qui, io sono Matteo Caccia, quello che sentite sotto di me invece è Di Martino. Dei palazzi troppo alti. Che ha suonato 10 giorni fa, o era settimana scorsa, 10 giorni fa dal vivo qui a Voi Siete Qui. Sapete, se ascoltate questo programma, che da qualche tempo il mercoledì lo dedichiamo ai live, cioè dei soprattutto giovani musicisti vengono qui e ci cantano dei brani in diretta dal vivo mentre io continuo a raccontare storie. Questo video, questo che state ascoltando, è diventato un video grazie a Marco Ligabue e lo trovate sul nostro profilo Facebook, caricato attraverso YouTube, ma Margherita lo starà caricando tramite Twitter. Insomma, trovate a Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook o Voi Siete Qui R24 su Twitter. Di Martino live 2 mercoledì fa, il tutto anche perché questo mercoledì, cioè dopodomani, continua l'appuntamento con i live musicali e avremo Virginiana Miller dal vivo qui a Voi Siete Qui alle 16, come al solito. Preparate il registratore il registratore con la cassetta. Io quando ero piccolo c'era Sanremo, mettevamo un mangia cassette registratore della Sony Rosso davanti alla televisione e schiacciavamo rec ogni volta che partiva una, e tutti in silenzio intorno. Shhh, comincia. E io ero l'addetto a schiacciare rec e play per registrare, boh, chi sono quelli che andavano a Sanremo in quell'epoca? Fausto Leali, Marco Armani, ve lo ricordate Marco Armani? O Andrea Armani? Faceva solo Sanremo lui, poi spariva e non lo sentivi più. Buongiorno a tutti, dicevo di nuovo, questa è Radio 24, oggi come al solito raccontiamo storie. Se avete voglia di inviarci delle storie, anche se lo state facendo e anche se continuate a farlo, lo ricordo, Voi Siete Qui, @radio24.it. Una pagina e mezzo di una storia che racconti qualcosa di voi, una storia che in qualche modo vi rappresenta. La storia di oggi è una storia molto contemporanea. La storia di Marco è la storia di un ragazzo che fa un mestiere che ha a che fare con la sua passione, ma è un mestiere diverso, e un giorno, girovagando sul web, trova una cosa che gli interessa, un corso di cucina, e semplicemente ci si butta. E questo è di fatto uno spunto che fa pensare che il web è veramente un grande generatore di desideri. Cioè, girovagando sulla rete ormai trovi di tutto e il 90% delle cose sono cose che non ti interessano o sono cose superflue, e poi invece ogni tanto trovi questa roba che, ah, guarda questo corso, sai cosa, un corso di passamaneria, da quanto tempo avrei voluto farlo? 349-238-6666 oppure Facebook o Twitter, che vi ho già detto. Qual è stato il desiderio che Facebook, buonanotte, vedi, ormai è una parte per il tutto, che il web vi ha cavato fuori? Corsi, oggetti, persone, gruppi musicali, motociclette, caseggiati abbandonati che avete trovato e avete detto: ecco cosa voglio fare da grande, voglio sistemare vecchi caseggiati abbandonati. 349-238-6666, il più grande generatore di desideri del mondo, quella roba lì che cominciava una volta per www e adesso invece non si dice più, tranne in alcuni rari casi. 349-238-6666. Marco ha capito che il suo desiderio era fare un corso di cucina e ovviamente l'ha trovato sul web. Credo che le decisioni più significative debbano essere prese in pochi istanti, affidandosi all'istinto, prima che la coscienza o, peggio ancora, il raziocinio possano intervenire smorzando l'impeto del momento. Febbraio 2012. L'influenza stagionale, accompagnata dal classico valzer di tachipirine, termometri e brodi di pollo, mi aveva confinato in quarantena a letto. In quel periodo stavo frequentando con scarso interesse un corso di laurea specialistica, confidando in future prospettive lavorative. Dal portatile, poggiato sul letto sfatto e malsano, vagavo annoiato su internet. Poi un sito catturò la mia attenzione. Meditai un istante e poi telefonai a Claudia, la mia fidanzata. Claudia, senti, ma se mi iscrivessi a un corso di cucina professionale che dura un anno a Pietrasanta, Pietrasanta che ancora devo capire esattamente dove si trovi, mi seguiresti? Lei rise e 3 settimane più tardi partivo per Pietrasanta, avendo poi scoperto essere in Versilia. E la mia ragazza mi seguì. C'è un tipo di legame con quello che facevo prima, perché mi ero già ravvicinato alla cucina con un corso universitario di tecnologie alimentari, però non mi bastava e volevo avvicinarmi alla vera propria cucina. Premetto, cucinare è una passione che mi accompagna fin dall'infanzia, quando sperimentavo pastoni di acqua, uova e farina più idonee all'edilizia che alla cucina. Ciò nonostante, fu indirizzato a studi scientifici, considerati maggiormente utili alla mia formazione. Raggiunti gli anni del libero arbitrio, pensare di ritornare a percorrere questa antica strada sembrava un'utopia. Fino a quel giorno. Arrivai a Pietrasanta in un piovoso lunedì mattina di marzo, pronto ad affrontare la sfida della ricerca di un appartamento. Pensando di riscontrare le stesse problematiche milanesi, mi presentai in agenzia immobiliare vestito da prima della scala, con una valigetta colma di incartamenti per dimostrare le mie credenziali. Il titolare ci rimase quasi male. Rispose: ma non c'è bisogno, conosco il direttore del corso, se non paga glielo farò presente. Lo guardai esterrefatto e firmai il contratto. I'll be up at midnight with my cigarette. Out on the pavement, flipping it for dimes. If there's anything redeeming, I haven't seen it yet. But I'm still up at midnight, chewing cigarettes. Iniziò il corso e mi trovai catapultato nelle cucine dell'istituto di formazione, in giacca bianca e pantaloni piedpool, a preparare salse madri, riempire bignè, spadellare risotti. Lavorai con una soddisfazione mai provata precedentemente. Lo feci in un'osteria di Pietrasanta, specializzata nei piatti di pesce, prima come stagista e successivamente come sous chef. Il cuoco, nonché titolare, era ed è un corpulento omone burbero ma buono, schivo ma fiero, a cui, nonostante i decenni passati nel caldo dei fornelli e tra i fumi delle friggitrici, brillavano ancora gli occhi, pensando ad un nuovo antipasto da preparare. Da buon toscano verace era assai lesto nelle imprecazioni. Una singola indicava serenità. 3 consecutive potevano essere dovute a un mestolo caduto o a una lieve svista. Sopra le 10 iniziavano le criticità, determinate da piatti dimenticati, variazioni dell'ultimo momento, errori dei camerieri. Soprassiedo sul numero di imprecazioni quando un sabato sera, nel momento di massima affluenza, una signora gli fece recapitare in cucina una bustina di una misteriosa pappetta per neonati da cuocere. La vita nella cucina è molto dura, è molto più difficile di quello che si possa immaginare guardando magari un reality. Si fa fatica, si suda e si arriva spesso stravolti alla fine della serata. mi resi conto di quanto il mare rappresentasse un'entità onnipresente nel quotidiano, in grado di scandire il ritmo della vita. Mi adeguai al letargo invernale di un piccolo borgo che fonda la propria economia sui turisti, in particolar modo dall'accento russo o arabo, ormai tra i pochi che si possano permettere di ordinare una bottiglia di Sassicaia facendosi amabilmente spennare dall'oste di turno. Ricordo quei mesi avvolti nel limbo, in cui ancora si avvertivano gli strascichi della stagione estiva passata e si guardava con un timore reverenziale a quella successiva, che se nefasta poteva essere l'ultima per ogni esercizio commerciale. E poi giunse il momento di tornare al nord. Fino all'ultimo fummo tentati di rimanere in Versiglia, ma Milano pareva offrire maggiori garanzie sul futuro. Pareva. Ad aprile del 2013, del tutto inaspettata, arrivò una telefonata dall'osteria. Il cuoco mi offriva di tornare a Pietrasanta come suo dipendente per una seconda stagione. Grande soddisfazione personale, ma gli risposi di no. Un bel ricordo deve essere posto in una teca affinché si conservi immutato. Faccia tranquilla Marco nella foto che ci ha mandato e che trovate come tutte le foto che vi racconto ogni giorno sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui. È direi a Pietrasanta, ma lo direi senza alcuna ragione, nel senso che c'è solo una pianta alle sue spalle. Lui ha indosso una t-shirt verde, ha i capelli corti, la barba appena accennata, entrambe di un bel color rosso acceso. Pronto Marco? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto bene. Dove ti trovi adesso? Adesso sono a casa, sono a Milano. A Milano. Nord. Però tu fai il tecnico alimentare. Sì, io sono laureato in tecnologie alimentari, però come si può aver capito dal racconto, la mia passione era più pratica, più... Certo, questo è chiaro, però mi dici, perché sì, sappiamo più o meno cosa fa un cuoco, anche se in realtà quello che succede in una cucina, poi magari ce lo racconti meglio, però il tecnico alimentare per chi lavora e cosa fa? Il tecnico alimentare lavora per aziende alimentari e si può occupare di controllo qualità oppure di gestione o di controlli microbiologici. Cioè tu nella fattispecie, Marco, tipo stamattina o ieri era domenica, l'ultima cosa che hai fatto qual è stata sul posto di lavoro? Ma io mi occupavo di... ero responsabile per un gruppo di ristorazione commerciale, l'ultimo lavoro che ho fatto, in questo momento sono fermo. Ok, ma tipo robe di mensa? Sì, sì, sì, anche. Cioè tu quindi assaggi tutta la roba che va nelle mense di Milano? No, io lavoravo più che altro per gruppi privati, diciamo, di ristorazione commerciale. Ok, e quanti anni hai Luca e Marco esattamente? Io ho 31 anni ora. 31, e adesso sei in cerca di lavoro quindi, mi sembra di capire. Sì, tra l'altro sempre attraverso internet di cui si parlava ho trovato di nuovo un altro corso a cui mi sono dedicato sempre nel campo alimentare. Dove esattamente? Sto facendo un corso di norcineria, che Che è un'arte raffinatissima, ma non so esattamente come funziona. Il pepe, c'entra il pepe, salami e pepe, giusto? C'entrano molto i salami, sì. È lavorazione della carne del maiale e produzione di salumi artigianali. E che cos'ha di diverso questo tipo di tradizione da fare un salame normale? No, beh, c'è tutto uno studio dietro, una ricerca, le tecniche tradizionali, l'uso di certe materie prime, di disciplinari. Che viene da Norcia, immagino, giusto? Dimmi di sì. Sì, il termine arriva da lì. No, perché io, nella mia scarsa fantasia, quando penso alla norcineria, mi viene sempre in mente quel salame orribile fatto tutto ricoperto di pepe che si trova negli autogrill, che credo nessuno abbia mai comprato nella sua vita. È presente quella specie di bomba ricoperta di pepe che c'è in tutti gli autogrill d'Italia? Sì, ho presente a cosa ti riferisci, ma... Chiaramente, certo, dammi dell'imbecille, ti prego, perché so che è così. Marco, invece, raccontami Pietrasanta. A parte che dico, Pietrasanta non sapevamo dove fosse proprio, non avevi idea di dove fosse, cioè, tipo Toscana, niente. No, allora, immaginavo che si trovasse da quelle parti, okay. Però da lì a poi darle un vero... Una vera collocazione, esatto. Tra Forte dei Marmi e Camaiore era difficile individuarla. In realtà è un posto magnifico, Pietrasanta. Assolutamente sì, anche da un punto di vista artistico è splendida, è veramente una... Io non ho capito, non ho mica capito perché sei venuto via, Marco. Perché l'ho visto come un ciclo, come qualcosa che dovevo fare, ma che doveva finire e poi tornare al nord per ricominciare... abbiamo scherzato adesso. No, scherzato no, assolutamente. Però l'ho vista sempre come una parentesi che dovevo fare perché avevo lasciato in sospeso. Quindi non vuoi fare il cuoco da grande? Sì. Io più che il cuoco, il mio obiettivo sarebbe il ristoratore, che è un pochettino diverso, diciamo. Cioè? Ecco. Avere un ristorante. Avere un ristorante, sì. Perché il ristoratore non sta per forza in cucina, o dipende dal tipo di ristoratore? Dipende, sì, può essere ristoratore cuoco, ma può essere il ristoratore responsabile. Qual è la cosa più faticosa dello stare in una cucina di un ristorante? Nella mia esperienza, il caldo. Cioè il fuoco? Sì, soprattutto nelle cucine, quelle di una volta, diciamo, negli spazi piccoli, d'estate c'è un caldo veramente difficile da sopportare. E questo sera dopo sera effettivamente stronca. Invece tu avevi una specializzazione, perché di solito no, c'è quello che fa gli antipasti, quello che fa i primi, o solo nelle grandi catene o nei grandi ristoranti, e così in generale poi tutti fanno tutto in quelli più piccoli. In quelli più piccoli tutti fanno tutto. Io però ero specializzato nei secondi di pesce. Ok. In quel caso, quindi. E qual è il piatto che ti esce meglio invece, Marco? Anche a casa, dico, con la tua fidanzata, con i tuoi amici. Sì. Ma io, grazie all'esperienza di Pietrasanta, diciamo che ho imparato a cucinare molto bene il pesce. Molto bene, poi è una parola grossa. Comunque, il pesce e i primi. Ad esempio, non so, degli spaghetti con triglie e pistacchi è un piatto che mi viene abbastanza bene. E invece, scusa, dimmi un secondo di pesce, perché a me viene subito in mente, che so, branzina al sale o l'orata al cartoccio. Che comunque, tu mi insegni, il pesce con poca roba... No, è la cosa più buona. Sì, esatto, se la materia prima è buona, il pesce deve sapere di pesce. E questo diciamo, è un po' il punto di partenza. Però dimmi il tuo piatto e poi ti lascio andare perché sento che è una sofferenza. Dimmi qual è il tuo piatto di pesce che ti riesce meglio. Un piatto di pesce che mi riesce meglio? Ma lì ho imparato a fare questi cartocci con la carta fata, cotti nell'acqua di cottura rilasciata dal pesce, che veniva molto bene. Magnifico. Poi, Marco, ti chiederei cos'è la carta fata, però ho paura di tenerti ancora qui e poi stai male, patisci, allora ti lascio andare. Tranquillo, sto benissimo. Ti ringrazio per la storia e la prossima volta che riparti faccelo sapere e magari buttalo giù un'altra volta. Va bene, volentieri. Buona giornata. Grazie anche a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Intanto vi ricordo che sul sito di Radio 24 potete scaricare ovviamente tutti i podcast di questa trasmissione, se non riuscite ad ascoltarla in diretta o se volete per una qualche particolarità riascoltarvela. Tra l'altro mi dicevano che due puntate di podcast messe insieme fanno più o meno 44-45 minuti, che sono il tempo ideale per la corsa, che credo sia il luogo numero uno o l'occasione numero uno con cui le persone ascoltano il programma. Io vorrei salutare, anche perché mi ha scritto un messaggio in privato, il tizio che faceva Superman alla fiera degli agenti di commercio venerdì, che tutti quanti abbiamo, voi che non l'avete visto, non c'eravate, non potete sapere di cosa stiamo parlando, però era un personaggio abbastanza particolare che si aggirava per la fiera vestito da Superman ma con la scritta agenti sul petto al posto della S, e gli rivolgo un pensiero molto affettuoso. Intanto qui c'è gente che grazie alla rete ha iniziato a collezionare bici da corsa, a comprare e vendere pezzi di vecchie biciclette. Qualcuno mi scrive: l'ho fatto anche io col concerto di Madonna a Torino, ma non saprei esattamente di cosa tu stia parlando. E poi qualcuno mi ricorda quel pezzo di prosciutto lì avvolto nel pepe, si chiama fiocco di prosciutto al pepe, fantastico il salame dell'autogrill ricoperto di pepe, assaggiatelo. Io credo che sia finto in realtà, credo che nessuno abbia mai scoperto. Grazie al web mio figlio da 3 mesi studia in università in Scozia, ne avrà per 7 anni, lui è contento da quel che posso capire vedendolo grazie a Skype, che non è il web, ci scrive questa mamma, immagino. Un insegnante di informatica che a scuola ne svela i crescenti vantaggi, che come mamma ne subisce le conseguenze. Ok, quindi lei la vede da entrambe le parti, dalla parte di madre e dalla parte di insegnante. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Hina. Lascio il microfono a Oscar Giannino, non prima di aver ringraziato Marco. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Paolo, vivo a Schio, la storia di domani è la mia e parla della visita di Leva. Questa è la mia storia e io sono qui.